Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Tutti sanno cos'è una First Lady. Trattasi originariamente di espressione inglese ormai entrata nell'uso comune della lingua italiana, al pari di termini come sport o marketing. La sua traduzione letterale sarebbe prima donna, ma noi sappiamo che una first lady molto spesso non ha nulla a che vedere con le manie di protagonismo. Ma c'è qualcuno a cui lei, nel fondo del suo cuore, dedica questa vittoria? Ma si vedeva anche dal filmato, mia moglie. Proprio non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. Quella che avete appena sentito è la voce dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che all'indomani della vittoria alle politiche dell'aprile del 1996 svela agli elettori uno dei segreti del suo successo, l'appoggio, costante ma discreto, della moglie Flavia. Sempre piuttosto diffidente nei confronti del luccichio della ribalta mediatica, Flavia Prodi si è sempre ritagliata un posto in disparte da osservatrice pacata e distaccata. Allo scadere degli anni 90, anche oltreoceano, finita l'era dell'ingombrante Hillary Clinton, la nuova First Lady, Laura Bush, sembra seguire la stessa linea tracciata dall'evanescente signora Prodi. Beh, il presidente si è fatto una grassa risata. Per fortuna è stato molto rapido. Sa, lui ha davvero un talento naturale come atleta. Mrs. Bush si riferisce al celeberrimo show incident, ovvero all'episodio ormai entrato negli annali del lancio di un mocassino diretto alla faccia del presidente George W. da parte di un giornalista iracheno durante una conferenza stampa. Distacco e talento nel minimizzare. Ecco la ricetta vincente di Laura Bush, moglie premurosa con tipico accento del sud e first lady per ben due mandati presidenziali. Quella del ritagliarsi un ruolo defilato è una tecnica che ha fatto la fortuna di molte mogli celebri. Anche Veronica Lario, che di mestiere faceva l'attrice, una volta sposata, ha preferito allontanarsi decisamente da palcoscenici e riflettori. Ma non tutte hanno scelto questa via. Io credo che l'unica stampa che si dimostri un po' gentile, anche se ora sta peggiorando anche lei, sia quella francese. Ed è un peccato che non si possa più avere un civile scambio di opinioni, perché invece di pormi domande intelligenti alle quali io potrei rispondere intrattenendola per mezz'ora, lei è qui a chiedermi stronzate su chi mi sono portata a letto e io vorrei solo strozzarla. Questa donzella combattiva è Carla Bruni, intercettata da un malcapitato cronista all'uscita di una sfilata. All'epoca era ancora una delle top model più acclamate e contese del pianeta, ben prima che la stampa francese si ritrovasse a dover parlare insistentemente di lei. Il mio ruolo sembra essere una questione piuttosto confusa e trovo che bisogna un po', come dire, stabilire quale sia effettivamente il mio stato giuridico. Nel caso della signora Chirac, il suo ruolo era senz'altro ben delineato e giustificato, perché lei aveva lavorato parecchio con suo marito e si vedeva che aveva un lavoro di natura politica. Nel mio caso non lo so, non mi rendo conto, così come per quanto riguarda Danielle Mitterrand, non saprei risponderle. Non importa se in veste di modella, cantante o first lady, la Bruni sembra essere comunque l'incubo di tutti i giornalisti. Già, first lady, altrimenti detta signora Sarkozy. La metamorfosi da Carla a Carla, per la nostra connazionale, ha significato poco più di uno spostamento di accento. Famosa era e famosa è tuttora. Fra le passerelle di Armani e le fotoricordo del G20 ci stanno giusto giusto una chitarra e un palcoscenico, alla faccia della vita dietro le quinte. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible? Dietro le quinte o sulla ribalta del palcoscenico mediatico, defilata o in prima linea, una first lady deve comunque sapere il fatto suo. Grandi donne che vivono al fianco di grandi uomini. Uno di questi è il nostro primo protagonista di oggi. Sono le 20:52 del 15 gennaio 1944, quando a San Juan la terra inizia a tremare. Siamo in Sud America, e più precisamente in Argentina, a 1200 chilometri dalla capitale Buenos Aires. I pavimenti, i soffitti, i muri, le strade e gli alberi si scuotono per interminabili secondi, finché non resta semplicemente un agghiacciante silenzio. Per l'Argentina si tratta della calamità naturale più devastante della sua intera storia. 10.000 vittime e molte altre migliaia di sfollati e senza tetto. Di fronte a simili numeri, le autorità del paese devono necessariamente correre ai ripari. È per questo che il 22 gennaio, ad appena una settimana dal disastro, il governo decide di improvvisare, con l'aiuto dell'Associazione Radiofonica Argentina, un grande festival artistico a beneficio delle vittime colpite dal cataclisma. In prima linea c'è il segretario del lavoro e degli affari sociali, il colonnello Juan Perón. Juan Perón. Con tegno marziale e sguardo fermo, il colonnello Perón, quella sera del 22 gennaio 1944, indossa la classica uniforme bianca, berretto e stivali neri lucidissimi. Sfodera anche un sorriso smagliante, come un taglio che fende perfettamente quel suo viso caloroso, ma al contempo rude e virile. Difficile resistere a una simile dimostrazione di bellezza e potenza. Praticamente impossibile per una ragazza ventenne in cerca d'amore e di riscatto. Una ragazza destinata da quella torrida sera di un'estate argentina a cambiare per sempre la sua vita e quella del colonnello Perón. È ancora presto però per conoscerla. Torniamo da quel sorriso radioso e da quell'uniforme immacolata e andiamo a scoprire da dove arrivano. Esistono varie scuole di pensiero sulle origini del futuro colonnello Juan Domingo Perón. C'è chi dice che sia nato a Lobos, in Argentina, ad appena un centinaio di chilometri dalla capitale, e da quei palazzi nei cui corridoi un giorno risuonerà il rumore dei tacchi dei suoi lucidissimi stivali d'ordinanza. C'è chi invece addirittura colloca i suoi natali a Mamoyada, provincia di Nuoro, nel cuore dell'entroterra sardo. Un'ipotesi senza dubbio affascinante, suffragata da un curioso miscuglio di verità storiche e prove quantomeno discutibili. Quel che è certo è il suo bisnonno paterno. Tomás Mario Perón, a metà 800, salpò dalle coste della Sardegna alla volta del continente sudamericano. Anni dopo, già all'apice della carriera politica, Perón parlerà del legame speciale che unisce il popolo italiano a quello argentino. Nella Repubblica Argentina un italiano non è stato, né è, né sarà mai uno straniero. La collettività italiana, così numerosa e così utile, ha creato un tale vincolo con tutti gli abitanti di questa terra che ormai un italiano è per noi quasi un compatriota. L'ipotesi che Juan Perón sia nato nel bel mezzo della Barbagia da genitori italianissimi e registrato all'anagrafe col nome di Giovanni Piras, dopo tutto potrebbe non essere così remota. Ma al di là della realtà e della leggenda, una cosa è certa. Nelle sue vene, fin da ragazzino, scorre un inarrestabile desiderio di emergere. L'etichetta che più pesa sul capo del giovane Juan non è quella di argentino o di sardo, bensì quella di figlio illegittimo. Una condizione piuttosto comune tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, dalla quale è bene sottrarsi al più presto. È per questo che all'età di 16 anni Juan inizia la carriera militare. Naturali, legittimi o illegittimi, i giovani figli dell'Argentina sono tutti uguali, tutti pronti a dimostrare il proprio valore sul campo, anziché su un pezzo di carta. L'ambiente militare è rassicurante per Juan. L'idea di unire le proprie forze nel raggiungimento di un obiettivo comune è quanto di meglio potesse chiedere. Io sto lottando per cambiare nel nostro paese lo spirito individualista. La nostra razza latina, dotata di un genio ampio e profondo, è passata in un secondo piano nell'ordine dell'umanità, perché non ha saputo organizzarsi in gruppi e lottare insieme. Il suo viaggio in Italia negli anni 30, nel fulcro del ventennio fascista, gli spalanca le porte dell'ideologia mussoliniana, che in parte applicherà nella costituzione della dottrina del futuro partito giustizialista. Nel 1943, tornato in Argentina, partecipa al colpo di Stato con cui il Gruppo de Oficiales Unidos destituisce il governo civile di Ramón Castillo. Per il colonnello Perón è l'inizio di una lunga e complessa carriera nelle alte sfere della politica. Thank you. Il colpo di Stato che instaura il governo dei militari consente a Juan Perón di insediarsi in una posizione di comando. Nel novembre del 1943 viene nominato ministro del lavoro e dello Stato sociale. L'impegno sul fronte lavorativo giova al colonnello, che dal punto di vista personale è ancora alle prese con il dispiacere per la morte della moglie Aurelia, scomparsa prematuramente. Si può proprio dire che le donne, nella sua vita personale e politica, abbiano avuto ed avranno un peso davvero notevole. Questa rivoluzione ha trovato nella donna argentina un eco che ben pochi avvenimenti della storia trovano in lei. Questo fatto per noi è di buon auspicio, perché se l'uomo è razionalista, la donna possiede un'intuizione che è sempre superiore a tutti i successi che possiamo conseguire noi uomini. Le donne della rivoluzione, le gonnelle, che contribuiranno a rendere l'Argentina un paese migliore, più democratico, più efficiente. Ed è proprio nei momenti più duri, come quelli immediatamente seguenti al disastroso terremoto dell'estate del 44, che la presenza e la determinazione femminili si fanno sentire con più forza. È un pomeriggio caldo, quello del 22 gennaio. Il primo mese dell'anno è il cuore della bella stagione nell'emisfero australe. Nonostante la temperatura, centinaia di persone sono riunite nello stadio di Luna Park, tutte accorse per dimostrare un po' di solidarietà a chi è stato colpito solo una settimana prima da una tremenda calamità naturale. Altrettante centinaia di argentini si riversano per le strade della capitale, e specialmente in Calle Florida, la via dei negozi e dei grandi magazzini, l'arteria lungo la quale sfila il corteo delle autorità coinvolte in questa speciale occasione benefica. Il colonnello Perón, con le sue spalle larghe e il suo incedere sicuro, è in prima fila. Dietro di lui, un nugolo di alte cariche e di volti più o meno noti del mondo dello spettacolo, uniti insieme al solo scopo di aiutare i più sfortunati. Una ragazza, in particolare, cattura l'attenzione dello statuario colonnello. Per favore, aiutate gli orfanelli di San Juan. Su, su, signore e signori, aiutateci, per favore. La giovane, che tutta indaffarata, trotterella leggera, scuotendo il salvadanaio colmo di offerte destinate agli orfanelli, si chiama Eva Maria Duarte. È una modesta attrice di drammi radiofonici, bel viso, corporatura minuta. Non le sembra vero di stare percorrendo la Calle Florida in lungo e in largo senza fermarsi nemmeno un secondo a sbirciare le vetrine. Non le era mai capitato prima d'ora. La calle quel giorno è sì gremita, ma diversamente dal solito. La marea umana questa volta non indugia di fronte alle pochette per signora o alle piramidi di pasticcini che occhieggiano dalle sale da tè. La gente ora non si ferma per curiosare o per comprare, bensì per depositare con orgoglio pochi peso nel salvadanaio di quelle graziose benefattrici, solerti e aggraziate. Tra loro c'è Eva Maria Duarte, e il colonnello Perón non ha potuto fare a meno di notarla. Aveva la pelle bianca, ma quando parlava il volto si infiammava. Le mani le diventavano rosse a forza di intrecciarsi le dita. Quella donna aveva del nervo. Juan Perón è affascinato da questa giovane attrice dal sorriso candido e solare. Anche Eva, a dire il vero, è attratta dai modi e dall'aura energica e potente che circonda il colonnello. Quella stessa sera, alla cerimonia solenne dentro lo stadio di Luna Park, Perón è seduto nella tribuna d'onore accanto al presidente Pablo Pablo Ramírez. Intorno a mezzanotte, Ramírez se ne va, lasciando libera la poltrona di Vimini che, con gesto semplice e sicuro, viene immediatamente occupata da Eva Maria Duarte. Da questo momento in poi, il colonnello Perón non ha occhi che per lei. È totalmente stregato da quella figura graziosa e al contempo determinata, fragile eppure così forte. Tutte contraddizioni che imparerà ben presto ad amare e che forse inconsciamente ama già. Destini incrociati. Chi Chi avrebbe mai detto che un terremoto potesse costruire qualcosa anziché soltanto distruggere? Dal disastro argentino che all'inizio del 1944 miete migliaia di vittime e ne lascia altrettante migliaia senza speranza e senza casa, nasce uno dei sodalizi umani e politici più celebri del Novecento. Quasi per caso, dalla disgregazione, nasce un'unione, nasce una coppia. È quella formata dal colonnello Juan Perón, ministro del lavoro e degli affari sociali, e da Eva Maria Duarte, attrice di popolari radiodrammi. Ben presto il suo cognome da ragazza sparirà da qualsiasi dicitura e il suo nome lascerà il posto a un grazioso diminutivo. È così che Eva Maria Duarte diventerà per sempre Evita Perón. Evita Perón. Lo speciale legame tra Evita e il colonnello in quei torridi giorni a cavallo tra gennaio e febbraio si evolve alla velocità della luce. La loro relazione non è ancora pubblica, ma i due vengono spesso fotografati insieme e le male lingue iniziano a serpeggiare, soprattutto nel giro degli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo. Ai primi di marzo, Evita tinge di biondo i suoi bei capelli corvini, un po' per le esigenze di copione imposte dalle riprese del film La cavalgada del circo, e un po' per suggellare con vezzo tipicamente femminile il cambiamento in atto nella sua giovane vita. Ma fermiamoci un istante e torniamo indietro all'epoca delle sue fluenti chiome brune. Siamo a Junín, 300 chilometri da Buenos Aires. Pampas e strade sterrate che si perdono per chilometri e chilometri sotto lo sconfinato cielo argentino. È qui che nasce Eva Maria Duarte il 7 maggio del 1919. Evita è l'ultima di cinque fratelli, tutti cresciuti con amore ed enorme spirito di sacrificio, da Juana Ibarguren, donna coraggiosa di lontane origini basche. Il padre della piccola Evita e dei suoi quattro fratelli è Don Juan Duarte, un modesto proprietario terriero già provvisto di una moglie e di una famiglia ufficiali, ma abituato, come raccomanda la consuetudine dell'epoca, a spassarsela con tutte le cuoche e le cameriere che solcano, anche solo per una volta, il pavimento della sua casa. Evita e i suoi fratelli, agli occhi del mondo, sono figli illegittimi. Sono cinque sporchi Ibarguren che si spacciano per Duarte. Quando Don Juan muore a causa di un incidente stradale, Evita è solo una bambina. Le manca quel padre sfuggente, ma all'occorrenza affettuoso, pronto a stringerla fra le sue braccia forti ogni volta che ha paura di qualcosa. Al suo funerale, Evita e gli altri Ibarguren camminano nella polvere in fondo al corteo, lontani dalla vera famiglia e dai loro sguardi contrariati. Eva è la più piccola, l'ultima della fila. Ed è proprio in quel preciso momento, nel recitare la parte del fanalino di coda all'addio del padre che ha avuto per troppo poco, che la sua pur esigua percentuale di sangue basco si fa sentire. Se si è baschi è proprio questo, l'esatto momento, adesso mai più, per giurare a se stessi e davanti al mondo che non si starà mai più tra gli ultimi. Vuelas tan alto, tan lejos, de pronto, sin respirar. Per tutto quello che le resta dell'infanzia e dell'adolescenza, Evita coltiva un sogno, quello di fuggire dalle miserie della provincia. Il 2 gennaio del 1935 è il fatidico giorno in cui si concretizza la sua fuga da Junín alla volta di Buenos Aires. Evita non ha una solidità familiare alle spalle e può contare solo su se stessa, sulle sue forze, sulla sua ambizione e su un'incredibile voglia di emergere. La sua biografa, Marisa Navarro, sottolinea la determinazione di Evita nel voler sfondare come attrice. She loved movies. Lei adorava il cinema, esattamente come altre centinaia di ragazze da centinaia di altri villaggi sperduti in giro per il paese. Non poteva certo andare a Hollywood, ma poteva andare a Buenos Aires, che in Argentina è il posto dove vanno tutti quelli che sognano di sfondare nello spettacolo. Il desiderio di farcela a tutti i costi accomuna Evita a una star della contemporaneità, forse la più grande, certamente la più pop, Madonna. Proprio la signora Ciccone, nel 1996, è stata chiamata a interpretare Evita nella trasposizione cinematografica di un celebre musical. Di certo, le analogie tra le due devono aver pesato nelle scelte di casting. Abbiamo moltissime cose in comune. Io sono fuggita a New York in cerca di fortuna quando avevo 17 anni e lei è approdata a Buenos Aires che ne aveva 15. È stata davvero molto coraggiosa ad arrivare dove è arrivata, tenendo conto di come era partita. Il coraggio è certamente una delle qualità che ammiro di più. E anch'io ne ho avuto parecchio. E anche in questo siamo molto simili. Il coraggio è la sfrontatezza di prendere in mano la vita e ridisegnarla a proprio piacimento. Questo è quello che bisogna ammirare di Evita. E non importa se le male lingue la dipingono come una finta svampita, come una donna di malaffare, disposta a collezionare amanti pur di fare balzi nella scala sociale e lavorativa. Il nuovo menage quotidiano a Buenos Aires non è sempre facile. All'inizio Evita trova qualche lavoretto come fotomodella. Il suo bel viso e il sorriso smagliante non sfigurano certo sulle pagine patinate delle riviste. Nel frattempo, il presunto elenco dei suoi amanti nell'ambiente dello spettacolo continua ad allungarsi a vista d'occhio. Ma a dire il vero, non si tratta mai di amore. L'inseguimento sistematico della carriera d'attrice e la sua vocazione a uscire dall'anonimato sono tutto quello che conta per Evita. La costanza ben presto la ripaga. All'inizio degli anni 40 diventa una delle più popolari ed apprezzate interpreti di radiodrammi, una sorta di antenati radiofonici delle soap operas. È proprio la sua fama in qualità di voce alla radio a farle conquistare un posto in prima fila all'evento benefico del 22 gennaio 1944. Ed è proprio in quell'occasione che scorda in un baleno tutti i flirt precedenti e subisce con prepotenza il proverbiale fascino della divisa. He was a very handsome man. Era un uomo molto, molto bello, alto, aitante, con un enorme sorriso. Aveva davvero la bocca, non so come dire, piena di denti e li sfoderava in continuazione. E poi era costantemente circondato da generali ed ammiragli molto più vecchi di lui, che lo facevano sembrare ancora più giovane ed aitante di quanto non fosse. Non mi stupisce che lei se ne sia innamorata. I think that they fell in love. Così la biografa Marisa Navarro ricostruisce i primi istanti insieme di Evita e Juan Perón. Il colonnello incarna perfettamente tutto ciò di cui Evita ha bisogno. Un appoggio pratico per dare slancio alla sua carriera, un uomo da amare, una figura protettiva e paterna che compensi la mancanza di Don Juan, quel padre assente e scomparso troppo presto, con cui peraltro il colonnello condivide anche il nome. Evita diventa così l'amante di Perón, uno degli uomini più importanti del paese, una figura che in quel momento ricopre contemporaneamente gli incarichi di vicepresidente della Repubblica, ministro della guerra e ministro del lavoro. Una personalità che si mormora nelle alte sfere della politica è destinata a diventare ancora più importante. E se il colonnello Juan Perón sta davvero per fare un ulteriore salto di carriera verso la presidenza del paese, avrà certo bisogno di qualcuno al suo fianco. Perón e l'Argentina hanno bisogno di una first lady, hanno bisogno di Evita. E Evita ha bisogno di loro. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me, I believed in you. Certainties disappear. Destini incrociati. Destini incrociati è in Argentina, a metà degli anni 40. Il ministro del lavoro Juan Perón ha 50 anni, Evita ha solo 24. Perón è il colonnello del popolo, Evita un'attrice popolare, da molti considerata semplicemente un'arrampicatrice sociale. Tra i due scoppia la scintilla e sarà un fuoco che farà ardere di cambiamento non solo le loro rispettive vite, ma l'intera storia di un paese. Evita in particolare si consacrerà per sempre nell'immaginario collettivo in qualità di prima vera first lady dell'Argentina. Lei si è inventata da sola il proprio mito ed è stata decisamente brava in questo. Dopotutto è un'attrice, è abituata agli ambienti del cinema e della radio, sa benissimo come si sta su un palcoscenico e come si recita. Conosce perfettamente i trucchi necessari per dimostrare alle masse di essere qualcosa, di essere qualcuno. Marisa Navarro, biografa di Evita, sottolinea la determinazione e il talento con cui la giovane ha perseguito il suo obiettivo. Ora sta con il colonnello Perón, la personalità più in vista della scena politica del paese. Intanto prosegue la sua carriera di attrice, tra le soddisfazioni e i pettegolezzi di chi la ritiene indegna, incapace o semplicemente raccomandata. A Evita non importa. E poi all'orizzonte ci sono problemi ben più seri. Il potere e la popolarità del ministro Juan Perón infastidiscono molto i colleghi della politica, che si organizzano per intraprendere un'azione drastica. 12 ottobre 1945. Il colonnello viene arrestato. Le sue idee politiche hanno fatto infuriare i conservatori che non tollerano la sua nomea di amico delle classi lavoratrici. Per le strade della città si riversano migliaia di manifestanti ribattezzati descamisados. Per via del caldo, la stragrande maggioranza di loro si è tolta la giacca ed è rimasta in maniche di camicia. I dimostranti occupano le piazze e le strade per giorni. Il 17 ottobre, profondamente turbata dall'accaduto e intenzionata a condividere le sue ansie e le sue emozioni con la gente, Evita si presenta in pubblico per tenere il suo primo discorso di fronte alla folla, gremita di lavoratori, di gente comune, che intasa letteralmente i viali di Buenos Aires. Miei cari descamisados, io non valgo per quel che faccio, per quel che sono, né per quel che possiedo. Io possiedo una sola cosa importante, e quella cosa ce l'ho nel mio cuore. Questa cosa freme nella mia anima, me la sento dentro nella carne e nelle fibre nervose. È l'amore per questo paese. Se questo paese si prendesse la mia vita, io me ne andrei da essa cantando, perché la felicità di uno solo di voi vale molto più della mia stessa vita. La folla è invisibilio. Evita, aprendo il suo cuore, ha conquistato quello enorme dell'Argentina intera. Dopo l'arresto di Perón e il suo immediato rilascio a furor di popolo, il colonnello è pronto per salire alla guida del paese. Evita è sempre al suo fianco, nonostante le male lingue e nonostante le difficoltà che questa scelta coraggiosa le comporta. Il 22 ottobre 1945, a pochi giorni dal tumulto emotivo che ha scosso il paese, Eva Duarte e Juan Perón si sposano con una cerimonia civile. Ora Evita è una signora, oltre che una primera dama. Dopo lo strepitoso consenso ottenuto da Perón e da sua moglie Evita negli ultimi mesi del 1945, il 24 febbraio dell'anno seguente, il popolo si mette in fila per andare alle urne. Il popolo, in realtà, non è il termine corretto. Il suffragio non è ancora universale ed è solo la popolazione maschile a partecipare attivamente alle elezioni generali di quell'anno. Il 55% di preferenze, registrato dal Partito Laburista di Perón, in ogni caso non lascia dubbi. L'ex colonnello, ex ministro della guerra e del lavoro, è il nuovo presidente della Repubblica Argentina. Evita è la sua first lady, nuova fiammante. Certamente la figura di Evita ha giocato un ruolo importante nella scalata al potere di Perón. Lei esercitava un fascino indiscutibile sulla gente. Evita è la nuova dama della speranza. I deboli e gli umili diventano la sua ragione di vita. Compresa nel suo nuovo ruolo di First Lady, la Perón torna da quello stesso popolo da cui era fuggita appena quindicenne, ansiosa di costruirsi un futuro diverso, migliore. E proprio come aveva fatto quando era scappata da Junín 10 anni prima, Evita sale sul treno che la porta dai bisognosi, nelle regioni più sperdute del paese, là dove nessun politico ha ancora avuto la possibilità o il coraggio di andare. Se non fosse stata sposata con lui, non sarebbe stata nessuno. Non sarebbe diventata Evita. Tutto quello che ha fatto, lo ha fatto nell'interesse di suo marito e contemporaneamente nel suo interesse. Certo, Evita fa i propri interessi e quelli del governo peronista. Ama riempire i suoi armadi con tailleur di Dior e scarpe di Ferragamo. Ama viaggiare col seguito della carovana presidenziale. Tutte cose che non possono non attrarre una giovane donna che non ha ancora compiuto 30 anni. Ma ci sono temi politici che la coinvolgono e le fanno battere il cuore al di là del luccichio della vita sulla ribalta. Il 9 settembre del 1947, il Parlamento argentino approva finalmente il disegno di legge che estende il diritto di voto alle donne. In quello stesso anno, su iniziativa di Evita in persona, viene creato il Partito Peronista Femminile, a testimonianza della voglia del popolo in gonnella di partecipare attivamente alla costituzione di un paese migliore. Mi rivolgo alle donne della mia patria. Ho appena ricevuto per mano del governo della nostra nazione la legge che consacra i nostri diritti di cittadine. E la presento davanti a voi, con la certezza che siamo sullo stesso piano degli uomini che popolano questa nostra terra argentina. Mi emoziona tenere in mano questo pezzo di carta, sul quale mi sembra che ci sia scritto «Vittoria». La fama di Evita è alle stelle, tanto che nel 1951 si avanza addirittura l'ipotesi, poi sfumata, di una sua candidatura alla vicepresidenza. La stessa Evita tiene un discorso il 22 agosto di quello stesso anno di fronte alla folla impressionante, accorsa in Avenida 9 de Julio, una delle arterie principali della capitale argentina. Il posto di vicepresidente è un onore a cui posso rinunciare. Io aspiro solo a quell'onore che è l'affetto degli umili della mia patria. Il lavoro duro e sistematico di Evita nei villaggi e nelle campagne del suo paese, le stesse dove è nata e da cui è fuggita, e le battaglie a fianco dei sindacati, le hanno garantito l'appoggio incondizionato del popolo, che la acclama e la vorrebbe vicepresidente. Ma le gerarchie militari del paese non vedono di buon occhio l'ascesa di una donna a una simile carica e la ostacolano decisamente. Evita non può fare altro che cedere alla volontà dell'oligarchia militare. Pochi individui ma potenti, di fronte a milioni di argentini di tutte le età. Forse la ragione della mancata candidatura di Evita è un'altra. Juan Perón sa della malattia che affligge la moglie già da qualche tempo e sa che se Evita assumesse un impegno politico, poi potrebbe non essere in grado di mantenerlo. La previsione purtroppo si rivela fondata. Il 26 luglio del 1952, a soli 33 anni, Evita Perón muore dopo una dura battaglia contro il cancro. Al suo funerale partecipa una moltitudine di cittadini, gli stessi che fino al 1955 andranno a rendere omaggio al suo corpo imbalsamato ed esposto presso la segreteria del Ministero del Lavoro. Già imbalsamata. È questo l'ultimo disperato gesto per tenere vivo il ricordo della donna che in una manciata di anni ha cambiato per sempre il volto dell'Argentina. Expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.